Ed ora continuiamo con Sara e Lorenzo. Sì, sta arrivando da mangiare. Ecco le espressioni nuove. Ascolti e ripeta dopo la seconda volta. Il coltello. The knife. Il coltello. Lo porto. I bring it or I'll bring it. Lo porto. Ascolti di nuovo. Il coltello. Lo porto. Ed ora il dialogo. Ecco la caprese e la bruschetta. I haven't got a knife. Non hai il coltello? Scusi? Sì. Guardi, la signorina non ha il coltello. Oh, mi scusi. Lo porto subito. Grazie. Another problem is when something is missing on the table and you need to ask for it. First of all, you need to know the Italian for what you want. Ascolti le parole nuove in italiano, poi in inglese, poi di nuovo in italiano e le ripeta. La forchetta. The fork. La forchetta. Il cucchiaio. The spoon. Il cucchiaio. Il cucchiaino. The teaspoon. Il cucchiaino. Il bicchiere. The glass. Il bicchiere. La tazza. The cup. La tazza. Il piattino. The saucer. Il piattino. La tazzina. The coffee cup. La tazzina. Il piatto. The plate. Il piatto. La scodella. The bowl. La scodella. And finally, two items of table linen. La tovaglia. The tablecloth. La tovaglia. Il tovagliolo. The napkin. Il tovagliolo. Adesso ripassi le parole nuove e, quando si sente sicuro, ascolti la prossima parte.